Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di due libri che hanno forse poco in comune, però potremmo dire che hanno in comune una cosa: hanno in comune il tempo, la velocità, l'esigenza di essere presenti e di riflettere sulla necessità di guardare al tempo come un elemento fondamentale. E proprio del tempo parla il primo libro, Il tempo breve nell'era della frenesia, la fine della memoria e la morte dell'attenzione, scritto da Marco Gnada. Buonasera Gnada. Buonasera. Il secondo libro è Comunicare l'emergenza, Crisis Management, la gestione delle notizie che non si vorrebbero mai dare, di Mauro De Vincentis. Buonasera De Vincentis. Buonasera. Allora, cominciamo da Marco Gnada. Marco Gnada è stato a lungo corrispondente del Sole 24 Ore da Londra e in questo libro non si dedica tanto alla politica quanto a una riflessione non tanto metafisica, quanto molto, molto concreta su come noi viviamo le nostre giornate. Da come nasce questo libro? Marco Gnada. Ma guarda, come nasce? Nasce da una carriera di giornalista per anni e dalla riflessione che la mia vita di giornalista è stata scandita da una crescente accelerazione e quindi dalla necessità di seguire un numero crescente di notizie, di eventi sempre più su piattaforme e media diversi. Questo ha portato a una riflessione semplice, cioè quanto è possibile continuare a seguire tante cose contemporaneamente con la stessa accuratezza con cui se ne seguono poche, com'è possibile mantenere, diciamo, per usare un parallelo con un'automobile, mantenere la strada senza deragliare, senza uscire di strada. Quindi ho iniziato a fare delle riflessioni, sono andato a leggermi un po' di libri sulla storia del tempo e in effetti poi la storia del tempo è tutta all'insegna di una continua accelerazione, il progresso umano è all'insegna della continua accelerazione e lo stesso rinascita dell'Occidente dopo i secoli bui del Medioevo avviene proprio con la nascita dell'orologio meccanico in Italia molto probabilmente, fra l'altro anche in Nord Italia molto probabilmente, e alla creazione dell'ora uguale. Da quel momento la giornata è stata divisa in 24 parti uguali e quindi il tempo del mercante, la possibilità di organizzare la giornata in modo sempre più preciso, con suddivisioni sempre crescente, ha preso il sopravvento. Ecco, la mia riflessione deriva poi, per ultima cosa, dall'accelerazione degli ultimi 6 o 7 o 8 anni sulle ali delle tecnologie delle comunicazioni e in particolare, io direi, gli ultimi 3 o 4 anni i famosi BlackBerry e iPhone, che hanno praticamente cancellato i meridiani, il giorno e la notte, il privato e il pubblico, e ci mettono in una situazione di emergenza continua. Ecco, in pratica l'emergenza continua sembra quasi un assist per presentare il secondo libro, Comunicare l'emergenza. Mauro De Vincentis, una lunga carriera negli uffici stampa, negli uffici di comunicazione. Come è nato De Vincentis questo libro che spiega come comunicare nei momenti di emergenza? Ma probabilmente è nato dall'esperienza sul campo, diciamo negli anni, all'inizio degli anni 70 ero in Alitalia e ci fu la prima grossa crisi energetica, quella della guerra dello Yom Kippur, tutta l'industria mondiale, soprattutto quella del trasporto aereo, non percepì segnali di preallarme, fu traumatico, ma proprio in quel periodo le imprese cominciarono a essere proattive, ad aprirsi alla comunicazione e cominciò forse l'espansione sui mass media degli spazi dedicati ai temi economici e finanziari. Ecco, qui si parla di gestione delle notizie che non si vorrebbero mai dare, ma che bisogna comunque dare, quindi bisogna dare poi in tempi rapidi, De Vincentis. Sì, in tempi rapidi di, diciamo, azione e reazione. Forse negli anni 70 c'era un margine di tempo per riflettere e dare le notizie, adesso con internet e la televisione praticamente diretta eccetera, bisogna essere pronti, non dico darle per primi, ma insomma essere in contemporanea, in linea con le necessità e le esigenze dei mass media. Ecco, allora Marco Gnada, siamo riusciti a misurare il tempo, spacchiamo il secondo infinitesimamente e in qualche modo non siamo però riusciti a conquistare il tempo. Come riuscire invece a impadronirsi e a gestire bene il nostro tempo? Marco Gnada. Ma mio libro è nato, figurati tu, in un monastero benedettino a nord dell'Inghilterra. E sono stato alcuni giorni a rinfrescarmi le idee, dopo anche che avevo lasciato il sole, per pensare a nuove prospettive di carriera. E stando al monastero ho capito che bene o male il controllo del tempo avviene assolutamente iniziando con il silenzio. E pian piano poi ho iniziato a realizzare che quella che è la creatività, l'immaginazione, ha dei ritmi e dei tempi diversi da quello che è l'esecuzione. E il mondo in cui noi viviamo è in modo crescente legato all'esecuzione. L'esecuzione la si può spingere all'estremo, insomma, finché il cervello ci assiste, quindi questo non è un problema. E che, secondo me, si sta arrivando a un punto che la stessa esecuzione, senza attenzione, e parlo di morte dell'attenzione perché non è possibile ormai iniziare a, non è possibile dividere la nostra attenzione su quattro binari paralleli allo stesso tempo in un continuo stato di accelerazione. Ho fatto l'esempio, ad esempio, del trading nella City. Ormai ci sono dei programmi di trading che non hanno più bisogno dell'essere umano, perché ci vuole troppa velocità per prendere le decisioni di investimento e sono già programmi automatizzati. E poi sappiamo, allora, dove si va a finire, peraltro. Esatto. L'altra cosa, la mia altra riflessione, è legare il tempo al denaro, che poi è sempre stato uno degli aspetti della storia dell'umanità, almeno dopo il tardo medioevo, e cioè il fatto di continuare a comprare futuro. Bene o male la nostra crisi finanziaria che abbiamo vissuto è stata l'insegna di comprare un'enorme quantità di futuro per comprimerla nel presente, per permettere anche ai poveri cristi in America di avere una casa a debito, eccetera, finché poi il futuro si è vendicato. Adesso dobbiamo smaltire questa sbornia di futuro che abbiamo compresso nel presente in un modo che ne avremo forse anche per una generazione. Ecco, non possiamo continuare a smaltire la sbornia nostra. Non possiamo continuare a spendere sulle spalle dei nostri figli, dei nostri nipoti o dei figli dei nostri nipoti. E allora, De Vincentis, anche l'informazione è diventata un po' più veloce, ma è diventata forse anche più superficiale, più emotiva, più reazioni che vanno controllate meglio, ma che è anche più difficile controllare di fronte a situazioni di emergenza. Situazioni di emergenza, io ritengo che bisogna essere, qualsiasi organizzazione, soprattutto quelle più esposte ad eventuali situazioni di crisi, debbano essere preparate a saper comunicare tempestivamente l'evento, la notizia e le eventuali azioni di difesa. Mi spiego meglio, facendo l'esempio del vulcano islandese. La crisi ha coinvolto non solamente le compagnie aeree, ma tutto l'indotto, aeroporti, stazioni ferroviarie, e l'informazione, la necessità di tempestivamente informare e assistere i passeggeri, gli utenti. Certo, quindi non bisogna nascondere le informazioni, nascondere può essere controproducente. Esatto, la notizia va data, non va nascosta, però va anche data in termini precisi, e credo che qualsiasi organizzazione, se studiasse bene quali sono eventualmente i punti deboli, potrebbe essere, deve essere preparata a saper intervenire tempestivamente nella comunicazione. Ci sono degli esempi, come successe a Bhopal, in cui la situazione non fu comunicata tempestivamente, e ancora adesso, quando si nomina Bhopal, ci sono tutti gli effetti negativi legati alla vicenda. Certo, anche Chernobyl fu comunicata con ritardo. Sì, quella di Chernobyl forse è un po' più diversa. Arrivavano le notizie frammentariamente e la gestione era non tarata sulla reale situazione. In Italia, per quello che io ricordo, era compressa tra la fonte e l'urgenza di fare fronte. Certo. Tra l'altro c'era il discorso a monte della sindrome nucleare che attraversava l'intero paese. Certo, poi lì c'era un problema anche di comunicazione, di ragion di Stato, sapendo appunto che era ancora ai tempi dell'Unione Sovietica. Allora, Marco Niada, tu parli di morte dell'attenzione nel tuo libro, nel senso che anche l'informazione ha qualche problema. Assolutamente, come ex giornalista... No, giornalista non si muore, si è sempre giornalista. Giornalista non si muore, come essere sacerdoti, questo è vero, uno ci resta dentro. Però quello che ho verificato nella mia vita è stato quello di avere davanti a me una tale quantità di informazioni che iniziava a diventare estremamente difficile da gestire. Ora, il problema è che tutti siamo diventati giornalisti, cioè qualsiasi persona comune si trova ormai di fronte a una quantità di informazioni, di stimoli, di telefonate, di interruzioni di ogni genere che fanno poi alla fine, come dire, ci sviano dall'obiettivo che ci eravamo prefissi. Ascoltando De Vincentis, sicuramente quello che dice è giustissimo, interessante, e effettivamente forse la cosa importante è stabilire delle priorità, perché in un mondo in cui ormai è tutto urgente, come si distingue un'emergenza dal resto delle urgenze? Perché la gente vive in uno stato di continuo, come dire, corsa ostacoli, e quindi è importante anche in un mondo di continua urgenza stabilire delle priorità. Questo secondo me sempre più non è il caso, perché si vive sempre più in uno stato di eccitazione che fa sì che l'ultima cosa diventa la più importante, ed è molto difficile mantenere allo stesso tempo l'attenzione e una chiarezza di idee. Senza attenzione non c'è l'osservazione, senza osservazione non c'è la riflessione, e senza la riflessione non si va molto lontano. Inoltre, poi concludo su questo, insisto nel dire che, e ci sono vari studi che stanno uscendo fra l'altro, che la creatività e l'immaginazione ha bisogno di ritmi diversi dall'esecuzione, e questo è assolutamente importante. Io non sono ad esempio a favore, cioè non trovo che i movimenti slow, il downshifting siano una soluzione in un mondo che corre a mille all'ora, non è possibile, bisognerebbe fermare tutto, ma il fatto che in mezzo a questa velocità si inizi a pensare in modo diverso o a riflettere su dove stiamo andando, secondo me sta diventando il tema fondamentale di questi anni. Riflettere è importante, non ci sono soluzioni facili, purtroppo il tempo è volato. Parlando del tempo, anche noi abbiamo i tempi abbastanza rigidi. Io ringrazio Marco Niada, autore del libro Il tempo breve, nell'era della frenesia, la fine della memoria, la morte dell'attenzione, edito da Garzanti, così come ringrazio Mauro De Vincentis, autore del libro Comunicare l'emergenza, Crisis Management, la gestione delle notizie che non si vorrebbero mai dare, edito dal Centro di Documentazione Giornalistica. Ringrazio anche Paolo Corleoni in regia, Anita Panizza in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona serata e l'appuntamento è a sabato prossimo.